sola compagna che sempre mi accompagna, la musica. Sì, vai così, vai così, vai così, sì. Vai così, vai così, vai così, sì. Ovunque vai questa musica è qui, è un po' quello che sai, ciò che dai sopra i beat boy. Comunque stai questa musica in te, l'anima che c'hai dai e fai suonare un bel. Feci un fioretto, ti parla musica col concetto, stato schietto, unica nel suo aspetto, i sogni che hai nel cassetto, per cui aspetto, io sto con lei come Bonnie sta con Clyde, il mio assetto. Rime, frasca, birra e un difetto, in tasca, biro e carta, ciò che è scritto, detto. Ammetto che volo tra le nuvole, verso l'inimmaginabile, io spesso solo immerso nelle aride. Idee di tutti e tutti duttili a fregarsene, a trascinare sé senza darsene preoccupazione mai. Per questa azione loop vai, suona all'infinito come sai. Sfinito vai, senza nulla che ti guidi, quello che sai, ciò che dai, stai in mezzo ai vivi. Seppur lascivi non son mica si cattivi, ci uscivi ancora prima che da quando scrivi. Devi molto a loro, questo sì, senza dubbio. E fate un coro per gli amici con cui sbuffo. Ovunque vai questa musica è qui, è un po' quello che sai, ciò che dai sopra i beat boy. Comunque stai questa musica in te, l'anima che c'hai dai e fai suonare un bel aio. E se ci assilli lei fa star così così, la senti tutto brilla come stelle, brilla sì, sì. La città sì, spegne tutta, scendi mi. La miccia che si è accesa adesso brucia, Sassari sta qui. Aspetta sì che sto suono giunga qui, qui. Ma si t'assilli forse troppo per sta gente mi. Ma se t'assilli un motivo forse c'è, la spilla si è infilata e adesso punge pure a te. Detta così sembra quasi un gioco di parole in tilt, tin tin mi passi. Sono qui il microfono che brucio come sir, sostanze tossiche che si attaccano al fluir. Ma si incasina sempre gioca con ste storie qui, con metriche strampalate dal suo kit. Sì. Ma sì la vita si continua anche così, ci manchi il crasto, un solo amore, resti in peace. Ovunque vai questa musica è qui, è un po' quello che sai, ciò che dai sopra i beat boy. Comunque stai questa musica in te, l'anima che c'hai dai e fai suonare un bel aio. Ho contato il virus con il contatto, con il tatto con cui scrivo, con il tatto. Mando conscio stato lirico con l'atto, l'atto consapevole, comandato dal fiato. Con lodevole, gradevole, fluire innato, con forte evoluzione, confortevole l'azione in questo stato. Concentrazione per il rap del prelato, ho confidato dei concetti che hanno combinato fatti e conoscenza, conoscenza un comitato. Ho contestato, ho concluso e riniziato, ho confuso con l'abuso ciò che è astratto. Ho contemplato, ho guardato il mondo come combinato, ho cambiato il condom se era usato, ho continuato a concedermi la vibrazione, considerato che è la genesi dell'emozione. Ho congedato cieli che mi congelavano, ho combinato sprezzi per coloro che contraccambiavano. Ho conseguito l'acustico, fluire con l'udito, continuerei a giocare con i con, ma ho finito. Che sai ciò che dai sopra i beat. Comunque sai questa musica in te, l'anima che c'hai dai e fai suonare un bel.